La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:30 primi e 20 secondi, eccoci qua in diretta a salutarvi da una Milano metà solata, metà con la pioggia, e grazie per l'ascolto in diretta in podcast, come sempre l'indirizzo, lo sapete, la versione Oscar @ radio24.it per chiamare e intervenire 800 24 00 24, e una puntata che fa seguito a quello che facemmo la settimana scorsa dedicata al tema due punti a capo. Come funziona il nostro ordinamento? È veramente efficace o ci sarebbe bisogno di interventi aggiuntivi per scoraggiare in maniera più energica i molestatori seriali, quello che si chiama stalking? Ricordate che la settimana scorsa ci siamo posti il seguente problema. Visto che l'invito alle donne, perché di questo stiamo parlando, le molestie ripetute e sempre più invasive sono spesso, quasi sempre, l'anticamera poi di ciò che può sfociare anche in un omicidio, per essere chiari. Ma l'interrogativo che ci ponemmo la settimana scorsa con due ospiti era: visto che l'invito sacrosanto che tutti condividiamo è denunciate, denunciate, denunciate, ci ponemmo la questione, ma in realtà poi quante denunce tra virgolette servono in media prima che il magistrato competente emetta davvero nella realtà una delle diverse misure cautelari di interdizione che sono a sua disposizione? E avevamo un ospite particolare, perché era una eurodeputata, che disse: io ho tre serie purtroppo di molestatori, ho fatto 8, 9, 6 denunce nell'arco di un anno e mezzo, e alla fine per uno è venuta una misura, è stata adottata una misura. Però ecco, i numeri erano questi qua, cioè numeri abbastanza impressionanti. E avemmo poi a quel punto, per capire dal dentro dell'ordinamento come stesse in piedi, quale fosse la giustificazione di una reiterazione così elevata di denunce prima di ottenere l'emissione di una misura, che non deve essere ovviamente automatica, il magistrato deve valutare, l'ottimo magistrato che ha a capo della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, il dottor Roia, che ci spiegò la radice, una delle ragioni del problema. Il problema non è solo gli organici, ovviamente, cioè le risorse umane a disposizione per valutare queste denunce, bensì il fatto che per valutare la denuncia, ovviamente il magistrato avrebbe bisogno, ci ha spiegato il dottor Roia, di una serie di professionalità a cui adire, a cui ottenere di avere accesso, psicologi, forensi, psichiatri e così via. E ci ha spiegato, ecco, questa sarebbe una buona norma da introdurre, perché nel nostro ordinamento, nella valutazione di quelle denunce, noi attualmente non possiamo ricorrere a quelle professionalità, e quindi, non avendo gli strumenti per valutare ciò che dalle denunce si evince del profilo del molestatore, è ovvio che dice, si possano verificare uno, X casi, tanti, molti, insomma difficile, si può valutare solo ex post, e a quel punto diventa una valutazione in cui si aggiunge l'avverbio purtroppo. Però noi gli strumenti di una maggiore efficacia ne avremmo bisogno se ci fossero consentiti. Oggi ci poniamo un altro problema, perché si è sollevato un allarme rispetto a le conseguenze che possono avvenire a seguito di alcune modifiche in corso del procedimento penale. E andiamo subito a presentare chi ha, tra gli altri, sollevato con autorevolezza questo allarme, con autorevolezza perché è un avvocato di lungo corso, di stimatissima professionalità, è stata anche parlamentare ed è impegnata da molti anni in maniera pubblica su questa battaglia civile di tutto ciò che è più opportuno introdurre nelle nostre norme perché avvenga il minor numero prima di molestie e poi purtroppo anche di femminicidi, cioè l'avvocato Giulia Bongiorno. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Allora, poiché non voglio commettere alcuna improprietà tecnica, io la pregherei di spiegare qual è, a suo giudizio, per chi volesse trova sull'edizione online del Fatto un'intervista all'avvocato Giulia Bongiorno, ma qual è questa finestra che a suo giudizio su ciò che sta esaminando il Parlamento può configurare un rischio di minor perseguibilità, diciamo così, del molestatore? È stata introdotta una norma che probabilmente aveva come finalità quella di deflazionare vuol dire cercare di evitare che ci siano pendenti troppo procedimenti, che prevede che se ci sono certi processi che sono partiti da una querela e in qualche modo il giudice può verificare se questa querela si può rimettere, cioè si può ritirare. In questo caso sente la persona, e anche se la persona dice no, non la vorrei ritirare, ma il giudice dice tutto sommato, però il fatto insomma lo ritengo poco significativo, a quel punto chiude il processo ed estingue il reato. Quindi un principio che si applica per tutti i reati. Io personalmente già sono contraria a questo principio perché credo poco al perdonismo, credo poco al fatto che debba perdonare perché ci sono troppi reati, quindi io già ideologicamente sarei contraria alla norma, però questo è un fatto mio soggettivo. Dopodiché c'è un problema invece effettivo ed oggettivo, e cioè che non ci si è resi conto del fatto che un reato così importante come lo stalking, legge che tra l'altro quando ero presidente di Commissione Giustizia ho anche contribuito a scrivere, e quindi mi dispiace molto assistere a questo svuotamento, un reato come lo stalking è un reato che si commette con molestie o minacce. Queste molestie, queste minacce sono delle condotte che possono essere querelate e il soggetto che ha querelato può anche rimettere la querela. Sì. Cosa significa questo? Che un soggetto che fa lo stalker può chiedere alla persona offesa di rimettere la querela, anche se la persona offesa non ritiene di rimetterlo, siccome è rimettibile in astratto, siccome nel codice si può rimettere la querela, a quel punto lo stalker, che non è che poi un personaggio non ossessivo, quindi insomma perseguiterà abbastanza la vittima per ottenere tutto questo, lo stalker potrà ottenere la remissione di querela ed estinguere il suo reato. Consideri che questa è considerata una delle poche leggi, perché tante ne abbiamo, però funzionava. E mi spiace tutto questo. È stato replicato da parte del Partito Democratico per dare un'informazione completa e corretta. Aspetti, noi abbiamo infatti abbiamo chiamato a questo punto, così se può restare, sentiamo anche poi che cosa controribatte, appunto una, un membro, un parlamentare, una parlamentare membro della Commissione Giustizia, Fabrizia Giuliani, anche in primis presidente della Commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferrari, Ferranti, mi scusi, che è magistrato, ha addirittura durissimamente replicato, ha detto questa è una vera e propria bufala. Allora sentiamo da Fabrizia Giuliani, deputato PD, membro della Commissione Giustizia, ha ascoltato almeno in parte, perché ho visto che mi davano il collegamento quando l'avvocato Bongiorno aveva già iniziato a parlare, però conosce il rilievo che ci ha rispiegato per i nostri ascoltatori nella maniera più comprensibile del mondo, quindi non per addetti ai lavori, esperti del procedimento, però il rilievo che muove l'avvocato Bongiorno dicendo qui è una falla sulla remissibilità, perché il molestatore inizierà a quel punto, poiché questa è una delle sue condotte più diffuse, a premere su chi ha presentato la querela perché ovviamente venga ritirata, nel qual caso si va alla depenalizzazione. Allora, grazie innanzitutto a Fabrizio Giuliani di essere con noi, lei che risponde. Grazie a voi. Cosa rispondo? Io sono assolutamente favorevole e sono stata favorevole ho preso una posizione nel 2013 volta a garantire l'irrevocabilità della querela e vorrei aggiungere una cosa che non riguarda la collega Bongiorno, Diciamo chi ha cominciato a sollevare questo tipo di allarme, sì, anche nei giorni scorsi, che era appunto la CGIL ed altri mondi, ricordo che erano quei mondi contrari al principio della irrevocabilità. Se non ci fossimo battute molto duramente nel 2013 per mantenere irrevocabile la querela, soprattutto per i casi più gravi, e avessimo ceduto alle pressioni che venivano da quel mondo e che avevano anche una certa influenza rispetto a certi parlamentari, non avremmo nemmeno la tutela dell'irrevocabilità, mi scusi ma sento molto male, sì, per i reati più gravi. E io questo punto dell'irrevocabilità per minacce reiterate e solchi lo voglio ribadire, non per aumentare il livello di polemica con Buongiorno, che stimo e apprezzo moltissimo per il suo impegno e rispetto a cui mi sento anche molto in consonanza rispetto all'azione di contrasto, a tutte le azioni di contrasto che dobbiamo fare per tutelare le donne. Voglio però dire all'opinione pubblica, alle donne che ci ascoltano, a chi si sente in difficoltà, a chi rischia magari in una situazione particolare proprio in questo momento, che rispetto ai reati più gravi, allo stalking fatto di minacce reiterate e cose serie, l'irrevocabilità viene mantenuta a tutti i livelli. Ecco, questo io mi sento di ribadirlo, così come mi sento di ribadire che nel corso di questa legislatura abbiamo avuto molta attenzione alla questione del contrasto alla violenza, anche portando avanti una serie di misure come la 119 del 2013, l'istituzione del codice rosa e adesso in ultimo il provvedimento di tutela degli orfani di femminicidio, che equipara la responsabilità del coniuge a quella degli altri familiari per l'accesso all'aggravante. Quindi voglio dire, siamo assolutamente favorevoli a questo, però se è possibile migliorare ancora questa norma e se ci sono questi casi che possono portare a un fraintendimento e a nuovi elementi di rischio, io sono assolutamente favorevole a correggerli, però non mi sento sinceramente di condividere questo livello di allarme. Ecco. Allora aspetti, io le faccio un'osservazione, poi lascio all'avvocato Buongiorno la piena facoltà. La sento un po' mi sente male? Sì. Parlerò un po' più a voce un po' più alta, così la sento meglio. No, dicevo, lascio tra pochissimo all'avvocato Buongiorno le controosservazioni. Da quello che ho letto, quindi parla il giornalista e non il tecnico del sì, diritto, proprio a seguito delle polemiche, dello scontro che fu aperto nel 2013 sull'irrevocabilità, da quello che i lettori dei giornali hanno capito, la conclusione fu che c'era una graduazione della irrevocabilità della querela a seconda della gravità dello stalking, per così dire, e a quel punto quindi è la giurisprudenza che conta, perché è la giurisprudenza in questi anni ha teso a definire grave in taluni casi, in realtà, qualsiasi atto di stalking ai danni di una donna. Però naturalmente resta aperta la facoltà nel valutare la graduazione poi al magistrato. Ecco, credo forse, da quello che ho capito, che il punto sia questo. Però chiedo all'avvocato Buongiorno, ha sentito l'opinione netta espressa dall'onorevole Fabrizio Giuliani, lei che dice? In realtà ci sia un dato oggettivo. Intanto lo stalking, avendolo insomma scritto, ricordo abbastanza bene come è scritta la norma, innanzitutto si commette con molestie. Il tipico stalker è un soggetto che perseguita pedinando, telefonando, non è che dice io ti invito a cena o certo, ti sparo. Io non ho mai visto uno stalker che punta il coltello alla gola, anzi la maggior parte degli stalker sono i molestatori. Direi forse il 70%. Ecco, la molestia è sicuramente un reato perseguibile a querela e la querela può essere rimessa. Poi, vero è che le minacce gravi e reiterate non possono essere rimesse, ma la minaccia normale è una minaccia che può essere rimessa. Quindi resta il fatto che circa il 70% dei casi nella mia panoramica di solito davvero lo stalker è il molestatore, non è il violento, diventa violento dopo. Quindi in realtà purtroppo nel creare una norma che vuole deflazionare si apre il campo a una serie di depenalizzazioni, perché avverrà che sicuramente, salvo che non ci sia un intervento che credo sia stato appunto annunciato da parte del ministro, nella maggior parte dei casi questi molestatori riusciranno a ottenere la remissione. Tra l'altro non è nemmeno necessario che ci sia remissione, badi, è sufficiente che il reato sia suscettibile di remissione. Insomma, io sono convinta che il ministro Orlando vorrà fare qualcosa, so che lo ha dichiarato. È chiaro che poi la gente è un po' spaesata, perché dice, ma insomma, prima di fare le cose almeno pensiamoci bene. Cioè, che senso ha fare questo tipo di novità se prima non si riflette sulle conseguenze? Allora, adesso abbiamo un minuto di informazioni di servizio sul traffico e poi torniamo a dare la parola all'onorevole Fabrizio Giuliani, perché insomma è vero quello che dice adesso l'avvocato Buongiorno, cioè il ministro ha parlato. La Presidente di Commissione dice questa cosa è completamente, è una bufala addirittura, però il Ministro ha detto, beh, pensiamoci un secondo, sentiamo prima il traffico e poi torniamo con i nostri ospiti. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... La versione allora, di Oscar. Eccoci tornati qui in diretta, stiamo riparlando come la settimana scorsa di stalking. La settimana scorsa vi abbiamo detto, ve l'ha detto un magistrato, che cosa servirebbe di più e di meglio ai magistrati per valutare le denunce delle donne nei confronti dei molestatori, per verificare quali tipi di misure eventualmente adottare nei suoi confronti, di quelle a disposizione dell'ordinamento e se adottarla, perché abbiamo dato conto di quante denunce numerose si accumulino prima di che prenda forma poi una misura interdittiva. Ma oggi il punto è un altro, e cioè se nell'ambito di questa possibilità per il giudice di estinguere il reato in seguito a quelle che si chiamano condotte riparatorie, come previsto nella riforma del processo penale approvato poche settimane fa, questa possibilità si applichi anche allo stalking, cioè siccome è valida per i reati che sono procedibili a quella soggetta a remissione. L'avvocato Buongiorno dice, nella mia esperienza, l'avvocato Buongiorno se ne occupa da anni, nella mia esperienza, nel 70% dei casi, nella formulazione attuale, sì, sarebbe perfettamente applicabile questa roba e quindi si andrebbe alla depenalizzazione. Allora, onorevole Fabrizia Giuliani, il ministro è intervenuto, come ricordava l'avvocato Buongiorno, quindi questo rischio forse anche a giudizio del ministro, se no non sarebbe intervenuto, esiste. In questo caso, se e come riparare, per fugare ogni possibilità di dubbio, per così dire, lei che dice? Ma gli spazi per intervenire a livello migliorativo ci sono ancora. Abbiamo appunto questa norma a tutela degli orfani di femminicidio, quella con l'aggravante finalmente per il coniuge che è in Senato, e per esempio quello potrebbe essere un luogo per intervenire eventualmente e correggere quegli aspetti che possono dare elementi di controversie. Però io una cosa ci tengo a dirla, proprio per evitare il disorientamento di cui parlavate prima. Nessuno stalker che usi violenza o minacce gravi contro una donna potrà cancellare questo reato con un risarcimento. Ecco, questo nella legge non c'è. Questa norma sulla giustizia riparativa, che si rivolge a questi casi più marginali, anche in questo caso il giudice dovrà sentire la parte offesa. Non è che le vittime vengono ignorate. Da questo punto di vista, non lo dico per fare una difesa d'ufficio, ma semplicemente per introdurre un elemento di chiarificazione. Perché dobbiamo fare ogni azione per tutelare le donne e soprattutto per far sì che la loro parola venga presa sul serio. Occorre anche, però, mi permetta, certo, che i giudici, comunque, perché l'ufficio che hanno la loro funzione resta comunque strategica, siano sempre più attrezzati, e dobbiamo intervenire per sensibilizzarli, per formarli, per far sì che ogni volta che si affrontano casi di stalking o anche di violenza o di abusi, abbiano un atteggiamento e una sensibilità in grado di affrontare con strumenti adeguati la situazione, perché poi noi possiamo fare anche le norme migliori del mondo, ma se poi vengono disattese in fase applicativa, allora i guai purtroppo diventano particolarmente seri. Ecco, questo io ci tengo a ribadirlo, perché non bisogna essere faziosi, bisogna... Il mio spirito è del tutto alieno e credo che, voglio dire, sia un riconoscimento... mi limito a dire abbastanza esteso, non voglio dire unanimità, non esiste mai nel mondo, ma anche all'avvocato Bongiorno, che quando anche era parlamentare a volte i suoi schieramenti non condividevano quello che pensava, cioè l'avvocato Bongiorno tutto gli si può dire, ma non che non abbia a quale norma, lo sa benissimo, insomma, è stata sua collega. Quindi magari il problema è semplicemente che nell'esame generale di questa nuova possibilità per il giudice di estinguere il reato non si sia posto mente a tutte le fattispecie a cui si poteva finire per vederla eventualmente applicata, perché questo mi pare il dubbio dell'avvocato Bongiorno, mica certo la malafede, ci mancherebbe altro. No, ma io ci scappi. Aggiungo solo una cosa, a livello diciamo soggettivo e anche per sottolineare questi aspetti di cultura politica di cui le ho parlato molto. Quando abbiamo avuto questa discussione così aspra, proprio con larga parte del mondo femminista, che era contrario a qualunque forma di irrevocabilità, furono tirati fuori argomenti come forme di paternalismo, che erano questioni da rifiutare, eccetera. Io avrei tenuto la querela irrevocabile, punto. Sì, l'ha detto, l'ha ricordato. Se dovessi ribadirlo, è. Dopodiché, naturalmente, bisogna sempre pensare che la sintesi politica deve essere qualcosa in cui si riconoscono tutti. Il risultato di una norma contro la violenza era un obiettivo troppo importante per essere mancato, e quindi trovammo questa gradualità. Per carità, meglio il decreto del 2013 averlo avuto che non averlo avuto. Questo ma sta scherzando? Sono il primo a dirlo. Tenga conto che, per esempio, tutta la questione dell'ammonimento è una questione strategica. La questione anche, per esempio, della violenza nei confronti di tante immigrate sui luoghi di lavoro, nelle loro famiglie, è uno strumento molto importante, a mio avviso ancora troppo poco applicato e forse ancora troppo poco conosciuto. Però, e ripeto, non parlo della Bongiorno, che stimo davvero moltissimo, anche per la lealtà e la dedizione che ha a questi temi, che è veramente di poche, che queste questioni invece dovrebbero cessare di essere strumentalizzate da chi si occupa di donne a giorni alterni. Ci troviamo garantiti e il giorno dopo ci troviamo... È chiarissimo, ma io di altrettanta buona fede do atto a lei, ci mancherebbe altro. E tra l'altro a volte vorrei farvi vedere gli sms che arrivano dagli ascoltatori uomini, ma questo è un problema mio, io ho un problema aperto su questi temi da anni a questi microfoni, perché mi accusano di essere... Vabbè, lasciamo perdere, non do giudizi. Avvocato Bongiorno, quando la settimana scorsa il responsabile delle misure di prevenzione del Tribunale di Milano ci disse il decreto del 2013 ci dovrebbe dare una facoltà in più, perché rispetto all'argomento che adesso usava l'onorevole Giuliani, i magistrati facciano più intensamente, rapidamente, efficacemente il loro mestiere nelle misure di prevenzione, e diceva sì, però perché non ci hanno dato questa possibilità di avvalerci delle professionalità senza le quali io posso giudicare, certo dalla voce del denunciante, del querelante, e poi però dal cartaceo, io non ho gli elementi che ha uno psicologo forense, uno psichiatra eccetera, per davvero capire meglio. Perché non c'è questa facoltà, secondo lei, avvocato Bongiorno? Allora, guardi, io credo che per la mia esperienza in realtà quello che servirebbe è avere dei pool specializzati sia nelle forze dell'ordine sia nella procura, eventualmente anche coadiuvati da tecnici specifici. Però vede, la specializzazione è la cosa più importante, perché tuttora esiste in certe zone d'Italia l'ipotesi di una donna che va a fare una denuncia e si sente dire torna a casa e fai pace. Mamma. Allora lì non c'è nemmeno il tempo di attivare lo psicologo, cioè c'è una tendenza a ritenere questo tipo di violenze come un fatto privato, come tra cioè, moglie e marito, avvocato, non mettere il dito. Lei dice nella realtà e nella statistica il freno culturale è ancora potentissimo, è presente. Sì, io dico che nella realtà io noto che il primo approccio, che necessariamente non può essere con uno psicologo, ma è con un soggetto delle forze dell'ordine, con un magistrato, spesso lì c'è il primo problema, cioè una tendenza a non credere del tutto o a non percepire la gravità del fatto. Cioè, se una donna va a denunziare, si pensa molto spesso che sia un atto di isteria. La violenza negli stadi viene colta subito come violenza grave, la violenza della donna ci si mette un po' di più. Quindi, primo, specializzazione dei pool. Poi, per carità, sono d'accordo che si potrebbero l'accesso a quelle professionalità. A quelle professionalità, però vede, c'è qualcosa proprio a monte. Questo è, temevo che io la penso allo stesso modo, ma non ho certi vostri titoli per dirlo. Comunque, grazie Giulia, buongiorno. Grazie a Fabrizia Giuliani. Grazie. Sbagliate quelli che anche oggi mi hanno scritto: questi non sono i problemi degli italiani. I problemi della violenza e della molestia sono i problemi di milioni di italiani. Altro che i dibattiti all'interno dei partiti, non sono il problema della vita reale degli italiani. Spesso, talvolta. Sì, continuate su Radio 24, appuntamento domani dalle 10 alle 12 con me, Carlo Alberto Caramale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Parleremo di banche, ma anche di televisione. A domani.